Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io devo dire che alla fine sono stato fortunato, perché quando questi hanno fatto irruzione, io ero nel giardino al telefono, mia moglie mi ha chiamato, mi sono voltato, ho visto che c'era uno con un mitragliatore, poi ho cominciato a sentire degli spari e mi sono nascosto nel primo cespuglio che ho trovato e sono rimasto lì per 5-6 ore. Ci sono state sparatorie per una buona mezz'ora e più, eravamo 10-11 persone. Io ero nascosto in un angolo dove non vedevo tanto, vedevo questi terroristi nei due piani del ristorante che si muovevano, andavano avanti e indietro, però non vedevo ad esempio gli ostaggi, perché erano in un angolo in cui io non riuscivo a vedere. Dopo un po' che ero lì, visto il primo momento di panico, ho chiamato l'ambasciata, sono intervenuti subito, hanno chiamato la polizia e tutto, e poi io sono stato lì ad aspettare che succedesse qualcosa, invece non succedeva niente, e a un certo punto si stava quasi albeggiando, e dove ero io ero decisamente a rischio di essere visto con la luce del giorno, per cui a un certo punto ho deciso di trovare il tutto per tutto e scavalcare il recinto per uscire dal giardino. Questo è il racconto di Gianni Boschetti, l'uomo che ha perso la moglie nella strage di Dacca e si è salvato perché è rimasto nascosto in un cespuglio per 6 ore. È un dramma nel dramma, perché dalle interviste che stai lasciando ai giornali dice: sono stato nascosto mentre Claudia moriva, adesso mi sento in colpa. Ma questa mattina non voglio entrare nello specifico della vicenda personale di Gianni Boschetti, ma voglio entrare più su una domanda che si stanno facendo molti italiani, che è stata, devo dire, in maniera esemplare riassunta dal Buongiorno di Massimo Gramellini di oggi, dal titolo Il sopravvissuto. Mentre i terroristi rastrellavano gli italiani e la moglie gridava il suo nome, Boschetti è rimasto, come scrive Gramellini, 6 ore in quel cespuglio. Non è possibile, secondo me, sentirsi al suo posto, ricostruire la sua vicenda, se concretamente non ci si è trovati in quel posto, in quel momento, in quel frangente, con gente che spara, con urla, con la sensazione che comunque se si esce si muore assieme alla moglie, è vero, ma si muore, e probabilmente una coppia lascia qualcosa, e probabilmente qualcuno pensa forse è meglio che io sopravviva e mi occupi di quel qualcosa che noi lasciamo. Faccio questa domanda perché questa mattina più persone mi hanno riferito che si sono sentiti domandare dalla moglie, dalla fidanzata, dalla compagna, dalla persona amata: ma tu per me saresti uscito da quel cespuglio? Ecco, la domanda è questa. Proviamo per un attimo a porci in questa situazione. Noi saremmo usciti dal cespuglio. Molti fanno i bravini e molti mettono davanti l'episodio eroico di Faraz Hussain, che è lo studente musulmano che invece è morto perché era l'unico che era stato capace a pronunciare i versetti del Corano, quindi si sarebbe salvato la vita. Gli hanno detto: puoi andare, tu sai il Corano, quindi sei musulmano, sei un fedele. Ma lui non voleva lasciare le sue due amiche, che erano vestite all'occidentale, quindi sarebbero state comunque ammazzate. È stato ammazzato insieme alle due amiche. Non voglio fare questo triste e squallido paragone, avete visto, quello il musulmano comunque è stato eroico, l'italiano si è nascosto, gli italiani sono sempre gli stessi. Pensate cosa avreste fatto voi se foste stati in quel cespuglio. Sareste usciti dal cespuglio per la persona che avete accanto, che amate, avete sposato, con cui fate l'amore, con cui uscite, a cui dite che volete bene, oppure sareste rimasti nel cespuglio? 800 24 00 24, a tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Otto zero zero ventiquattro zero zero ventiquattro. Abbiamo fatto una domanda, che è la domanda che molti uomini si sono sentiti fare questa mattina. Anzi, vorrei chiedere alle ascoltatrici, per favore fate questa domanda al telefono, in qualunque maniera, se lo avete accanto all'uomo che considerate in questo momento l'uomo di riferimento della vostra vita, e domandategli: tu saresti uscito per me dal cespuglio? Mi piacerebbe sapere cosa rispondono. Vi posso dire immediatamente quella che è la reazione immediata. Valerio Rocchetti ha detto: mi sembra una domanda del cazzo, che domanda è? E forse c'ha ragione. Fabrizio Intonti dice: no, io se avessi avuto un mitra sarei uscito. Anche a me l'ha domandato la mia compagna e ho risposto: con un mitra sarei uscito. Ma improbabile, non vedo Intonti con un mitra in mano, lo vedo con una macchina fotografica, lo vedo con un bicchiere di vino, lo vedo con tante cose in mano, ma non lo vedo con un mitra in mano. Però è una risposta che ha un suo senso. Non voglio che voi giudichiate il signor Gianni Boschetti, perché lui c'è stato veramente in questa vicenda. Voi con un atto vi fate questa domanda che può sembrare assurda e paradossale, ma è una domanda che secondo me ha un senso. Esiste un momento, esiste una prova, esiste un salto nel imponderabile in cui una persona mette a prova quello che è il suo rapporto, e basta in questo momento dire: rischio in maniera irrazionale la mia vita, anzi dedico la mia vita a te, perché comunque moriamo insieme, finiamo insieme, per me la vita non ha senso se non ci sei tu, non c'è nessun razionale che mi fa ragionare secondo quello che è l'istinto primario della specie, mi salvo io perché continuo comunque a fare qualcosa. 800 24 00 24. Bruno, buongiorno. Ah, buongiorno, salve. Gliel'ha domandato, a lei gliel'ha domandato qualcuno questa mattina? Se... No, sinceramente non me l'ha domandato nessuno, ma personalmente io le spiego, insomma, ho 60 anni, quindi non sono più una persona giovanissima. E premetto che sono estremamente attaccato a mia moglie e non abbiamo figli. Io non sarei rimasto dietro il cespuglio, guardi, perché un pensiero del genere da portarsi per tutta la vita non l'avrei accettato, numero uno. Certo, non vado al ristorante col mita, no? Perché se avessi avuto un mita sarei uscito. Questa è una risposta stupida, perché... Beh, Intonti, logicamente, doveva giustificarsi in qualche maniera, perché altrimenti la risposta sarebbe stata... Ma guardi, io per me, le ripeto, sarei uscito, certo, in maniera razionale, avrei tirato i sassi contro i vetri in modo da attirare l'attenzione. E poi le dico la sincera verità, per il profondo odio che provo per queste persone, per cui loro... quando fanno gli attentati giocano sul fatto che la gente scappa. Lì al Bataclan erano centinaia di persone, se gli fossero andati addosso li avrebbero massacrati. Non bisogna aver paura di questi. Certo, se capita rischi di morire, ma così muori lo stesso. Guardi, questo è un po' quello che dicono le persone che non ci sono state, a quelli che sono stati internati nei campi di concentramento. Perché non vi siete rivoltati? Sì, tanto morivate tutti, qualcuno sarebbe morto subito, ma gli altri avrebbero fatto, perché eravate tanti in più. Bisogna esserci nelle situazioni. Comunque la sua prima reazione è dire: no, io sarei uscito, sarei andato comunque disperatamente semmai a morire con mia moglie. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Diciamo che è una domanda che forse non ha molto senso, cioè, perché so, però è una domanda, guardi, le do ragione, che stiamo... ma visto che una domanda si stanno facendo girando. No, ma è chiaro, possiamo dare un'altra risposta, cioè che cosa avrei potuto fare, perché poi che cosa uno avrebbe fatto in quella situazione, bisogna essere lì in quel momento. Allora, ovviamente uno... Allora mi scusi, no, Riccardo, seguo la sua idea, razionalizziamo la risposta, proprio facendo un calcolo delle probabilità. La probabilità sicura è che sarebbe stato ucciso, uscendo moriva, questo è sicuro. Sì, effettivamente. No, beh, istintivamente così le direi che avrei cercato di fare qualche cosa di sicuro. Nel senso che non si può, cioè, appunto, si poteva fare qualche cosa, non lo so. Io credo che qualche cosa si può sempre provare a fare. Lui ha telefonato, infatti, ha telefonato all'ambasciata, ha fatto quello che era nel suo. Sì. Certo che, voglio dire, io ho dei bambini piccoli, per cui magari ci avrei anche pensato anche quello. Nel senso che, quindi lei avrebbe pensato, è meglio che della famiglia uno rimane vivo per occuparsi di figli. Ma non lo so, è una domanda, che è una cosa che uno si sarebbe domandato. Il nostro istinto animale base questo farebbe rispondere: io mi continuo a occupare dei figli. Non lo so, però dall'altra parte poi ci sarebbe stato, ma non ho fatto niente, no? Diciamo, l'istinto animale porta a sopprimere i figli più deboli per salvaguardare quelli che hanno ancora speranze di vita. In periodi di enorme carestia, anche in Occidente, sono stati mangiati i figli perché si mantenesse comunque il nucleo centrale della famiglia. Quindi ha un senso quello che dice lei. La risposta razionale, io comunque ottimizzo la situazione drammatica per fare in modo che comunque salvo parte della famiglia. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Ah, ecco, è assoluta predominanza dell'essere, dell'istinto animale, nel senso che se fossi stato là probabilmente non sarei uscito con mia moglie lì, se ci fosse stata una delle mie figlie certamente sì, e calcolo delle probabilità, mia moglie lì, le mie figlie non ci sono, uno di noi deve rimanere al mondo, quindi non esco. Allora Francesco, mi faccia capire questa differenza, perché anche a me hanno fatto questa domanda e rispondo sinceramente, no, io sarei rimasto perché ho due figli, avrei pensato ai figli. Però mi ha chiesto Fabrizio stamattina, sì, ma se al posto della moglie avresti trovato Tommy o Filippo, uno dei tuoi figli, che avresti fatto? Ci ho pensato, ho detto, sarei uscito. Totalmente irrazionale, perché è la stessa cosa, comunque lasci un figlio, comunque lasci una moglie, quindi comunque... Però per un figlio distinto, se avessi visto mio figlio in difficoltà, sarei uscito subito. Forse perché un figlio uno lo considera un essere più debole, anche se non sono poi deboli quanto è debole una donna. Per i figli eventualmente l'istinto avrebbe portato a fare una follia, uscire e morire assieme al figlio. Dobbiamo anche interrogarci su questa seconda parte. Perché per il figlio uno sarebbe rimasto e per la compagna, la moglie, la fidanzata, l'amante, l'amica, ognuno avrà il suo ventaglio comunque di persone, e invece non l'avrebbe fatto. Giacomo. Buongiorno, io sì. Sono Giacomo e sono pienamente d'accordo con quanto detto da lei ora nell'ultima risposta alla domanda, e anch'io ho due figli e sarei rimasto nel cespuglio senza ombra di dubbio, però se ci fosse stato un figlio nella stessa situazione probabilmente anche irrazionalmente sarei uscito, ecco. Quindi mi trova completamente d'accordo nella valutazione, ecco, che ha fatto. Però mi aiuta un attimo, visto che è una situazione simile alla mia. Come mai noi facciamo questo distinguo? Uscire per i figli? Lei ha due figli, ha detto, no, sì, Giacomo? Due figli. Quindi sì. Metta caso che era lei con il figlio in quel ristorante in vacanza, stessa situazione simile, lei per il figlio esce, a casa rimarrebbe una moglie vedova con un figlio comunque senza padre, perché in quel caso il meccanismo di salvaguardia della specie, della dinastia, del clan non funziona, perché è la stessa cosa, lascia comunque... No, razionalmente torna come discorso il fatto che comunque siano più o meno paritarie le due situazioni, però a livello mio personale... sacrifica un figlio, però permette che l'altro figlio, certo, la moglie continui, non distrugge la famiglia, non distrugge la sopravvivenza di una famiglia. Come mai secondo lei invece è più immediata questa risposta? Uno, diciamo... Ma penso che scatti proprio qualcosa di irrazionale, quando c'è di mezzo un figlio penso che scatti veramente un meccanismo irrazionale che ti porta a fare gesti che magari non hanno niente di logico, insomma. Le leggo qualche sms, scrivono vari ascoltatori, ritengo che siano troppe le varianti. Innanzitutto, se fossi mia moglie a essere nel cespuglio, io non vorrei mai che venisse fuori per venirmi a cercare di salvare. Altra variante, giusto? Se fosse stato fuori l'uomo, ti saresti auspicato che la moglie uscisse? No, mai, direi resta dentro, ti salvi la vita, che esci a fare per essere ammazzata subito, tanto io muoio, almeno tu sopravvivi. Poi altra variante, se ha dei figli a casa, se avessi dei figli a casa che mi aspettano, vorrei che il marito rimanesse nascosto, se fosse una donna, per tornare a casa dai miei figli. Poi l'altra ultima variante, fare quello che realmente ha fatto questa persona, aiutare le autorità a intervenire. Dunque, qua uno vuol dire Boschetti, si chiama Gian Galeazzo, ho detto Gian, non Gianni, ma leggo dai titoli dei giornali, non credo che sia una variante che ci cambia la vicenda, si chiami Gian Galeazzo, detto Gianni, cosa cambia? Ho detto uscite dalla circostanza, immergete in una circostanza simile, senza dover giudicare o sovrapporsi al fatto avvenuto, e pensate, vedete, già le varianti che ci pongono i nostri ascoltatori sono tanti. Uno dice, un ascoltatore, Nicoletti avrebbe fatto, già l'ho detto, sarei rimasto, perché avrei pensato ai figli. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei. No, a me la domanda è piaciuta, perché mia moglie me l'ha fatta subito, ecco, ieri. Finalmente qualcuno che ci dice la realtà per quello che... lei cosa ha risposto? Sì, allora, io sinceramente, a parte che veramente bisogna trovarci, sì, perché bisogna vedere se si poteva intervenire, magari poteva scavalcare prima, e quindi se scavalcava riusciva a intervenire con le forze dell'ordine di lui, tante varianti, chiaramente se non si giudica, lei ha ragione in assoluto. Io col mio carattere sarei uscito, mi è piaciuto molto quello che dice, se fosse tua moglie nel cespuglio le dicevo di rimanere dentro tutta la vita. Mia moglie invece mi ha detto subito che se in quella situazione, io ho risposto subito sarei uscito, perché sono fatto così, e lei mi ha detto no, tu dovevi rimanere nel cespuglio, siccome abbiamo un figlio di 4 anni, perché dovevi poi curare il nostro figlio. Sua moglie l'ha fatto una risposta razionale, cioè prevale la razionalità. Razionalissima. Io però sinceramente gli ho detto anche a mia moglie, è vero, hai ragionissimo, a parte già trovati, sì, tante parole, ok. Però io col carattere che ho non so se oggi sarei qua, sì, sarei qua con mio figlio, ma magari sarei dentro qualche moschea a fare delle stupidaggini. Vabbè, quello cioè, il dopo. Quindi mio figlio non lo curo lo stesso, quindi sì, dico. Possiamo farci tutti finché vogliamo dopo. Il padre, esatto, e il figlio studiano da guerrieri ninja in un monastero Shaolin e poi fanno come Kill Bill la vendetta. Questa è un'altra vicenda, però non ci interessa. Chiudiamo un attimo dare le informazioni della borsa. Mi scrive una persona: Nicoletti, sei uno sciacallo dei sentimenti. Cosa sto sciacallando? Sto immediatamente portando all'attenzione del pubblico quello che è un dato di fatto. Oggi molti italiani sono sentiti chiedere dalla moglie: tu cosa avresti fatto? Saresti rimasto nel cespuglio? Per me saresti uscito dal cespuglio. Questo mi sembra un buon indicatore del sentire comune. Ogni tanto vale la pena di rifare il punto anche rispetto a quello che noi diciamo di essere e siamo veramente, anche rispetto alle facezze che molte volte ci si dice: mi ami, quanto ti ami, cosa saresti disposto a fare per me. Questo è un fatto razionale. In una situazione di pericolo avresti seguito l'istinto passionale e quindi seguito nella disgregazione totale, nella fine, la persona che è accanto, o avresti razionalmente pensato a salvare il salvabile della tua famiglia? Si parla tanto di famiglia, questo mi sembra una buona domanda per ribadire quello che è il sentire generale rispetto alla famiglia. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Melog, cronache meridiane. Stiamo ragionando con i nostri ascoltatori su quanto loro avrebbero fatto, immaginato, pensato se si fossero trovati nella situazione del signor Boschetti, che è rimasto in un cespuglio 6 ore mentre uccidevano i terroristi a Dacca sua moglie, e oggi nei giornali e nelle interviste dice di esserne pentito. Abbiamo detto: non sovrapponiamo la nostra esperienza, che non abbiamo, a quello che è realmente accaduto, ma pensiamo un attimo, visto che questa è la domanda che molte donne stanno facendo questa mattina ai loro uomini: cosa avreste fatto voi? Sareste usciti dal cespuglio o sareste rimasti? Abbiamo visto che le varianti sono già molte, abbiamo già insieme ragionato sul fatto che se al posto della compagna, della moglie, della fidanzata, dell'amante ci fosse stato un figlio distinto, l'uomo sarebbe uscito anche di fronte alla irrazionale scelta di morire assieme al figlio. Se ci fosse stata in realtà la moglie, molti dicono, sarei rimasto, soprattutto se c'è una famiglia alle spalle che deve continuare ad essere mantenuta e sostenuta, il padre sarebbe rimasto per pensare agli altri. Nadia, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, la sto ascoltando. Lei ha fatto questa domanda questa mattina? Sì, me la sono fatta e mi sono risposta. Neanch'io per mio marito non sarei uscita dal cespuglio. Sì, ma lei l'ha fatta a suo marito, quello mi interessava sapere. Sì, l'ho fatta anche a mio marito. E che ha risposto? E mio marito ha detto che non sarebbe uscito neanche lui, e mi ha lasciato soddisfatta questa risposta, perché ha valorato il fatto che per me o per lui non sarebbe stato uguale, salvo per i figli. Perché due, un marito e una moglie, fanno una vita, poi i loro destini si incrociano, si scelgono e fanno un percorso di vita insieme, finché morte non li separi. Un figlio è diverso, un figlio gli dai la vita. E in questo caso morte li separa. Sì, li morte li separa, ma non necessariamente la morte insieme, la morte li separa. Ma quando tu a un figlio dai la vita, tu vuoi, vuoi fargli capire che nel momento della morte tu sei ancora lì con lui, decidi di dargli la vita e di morire anche per lui, perché noi siamo anche quello che poi facciamo, le azioni che facciamo all'ultimo momento. Perché desideriamo dare la mano a una persona che sta morendo? Perché vogliamo essere con lui nel momento in cui muore, perché vogliamo che lui si senta aiutato nel momento peggiore del trapasso. E un figlio diciamo, non può diciamo che in questo caso non è un sereno trapassare in cui si vogliono le persone amate intorno, essere vittima di una strage, non ci sarebbe stato nemmeno questo momento di elaborazione, probabilmente nessuno se ne sarebbe nemmeno accorto se fosse intervenuto. Guardi, io ho la convinzione che nel momento in cui muori, quell'attimo che tutti dicono non ti accorgi perché un attimo ha una durata lunghissima e riesci anche a percorrere tutto il percorso della tua vita in quella frazione di secondo. No, ma voglio dire, Nadia, perché molto probabilmente la persona ostaggio di terroristi nemmeno sarebbe accorta dell'intervento o meno dell'altra persona, perché sa, è un momento in cui tutti sparano e tutti ammazzano. Ma certo, probabilmente se entravo ed era già morto ancora meno si sarebbe accorto del mio ingresso, ecco. Perché magari era già morto, ma è quello che provo io, è quello che io voglio in quel momento provare. Io in quel momento voglio essere vicino a mio figlio, voglio entrare perché ho l'illusione che lui senta che io sono vicino a lui. Poi certo, se lui era già morto, se è girato e non mi vede, questi chiaro sono dei risvolti che io non posso sapere, ma in quel momento io voglio entrare perché voglio essere vicino a lui. Per una moglie è diverso, dice bene, sono due destini, è capitato a te. E io vado avanti. Vede, Nadia, per la Nadia, stessa ragione per cui le mogli si cambiano, i mariti si cambiano, i figli no. Nadia, lei ha detto, lei quest'ultima frase per me è illuminante, perché dimostra realmente un meccanismo di ragionamento razionale che le donne sanno fare rispetto agli uomini, anche di fronte ai momenti di lascito, di abbandono. Perché gli uomini sono stalker e massacrano le donne e non accettano di essere lasciati? Le donne in fondo sono lasciate, si tirano sulle maniche e ricominciano la loro vita. Esiste una sorta di radicale, e oserei dire non se la prendano le donne, quasi animalesca, maniera di saper risolvere in maniera razionale, quindi efficiente, le situazioni in cui l'emotività prevale. La donna ha detto, tu tanto devi morire, io mi occupo dei figli. Noi uomini invece facciamo un'infinità di meccanismi mentali, la amo, non la amo, devo dimostrare che la amo veramente, quando in realtà in quel momento mi sembra, ma questo è il mio parere, che sia secondario capire quanto sia forte l'amore coniugale o l'amore tra due persone di fronte al fatto che comunque se qualcuno rimane qualcuno dovrà pensarci. Grazie Nadia. Elena. Eccomi. Sì. Ecco, e volevo solo dire che questa signora secondo me ha fatto molto bene, perché ci ha pensato la collettività, a tutti quanti, non ha solo pensato a sua moglie o la sua pelle, penso che in quella situazione ha cercato di pensare a tutti, perché deve essere estremamente drammatico, non posso immaginare, forse non desidero neanche troppo immaginare, però io sono una gran romantica che... pensandoci, non lo so, se mio marito diceva no, insomma, magari correvo lì perché mi piace pensare di essere vicino a uno per dare conforto, e se fosse un figlio terrorista o treno, qualsiasi cosa, io mi butterei prima di loro, insomma, mi sacrificherei proprio per stare vicino. Allora Elena, mi sembra che il passo avanti che abbiamo fatto... Un figlio non deve mai morire prima di un genitore, insomma non è nella natura. Sì, certo, è totalmente innaturale, è al di fuori delle regole che un genitore veda, seppellisca i propri figli. Quindi forse per questo, proprio perché è al di fuori delle regole che noi possiamo percepire, che possiamo sopravvivere al nostro figlio, quel moto di... razionale difesa della specie che scatta, dire rimango per comunque devo occuparmi dei figli, salterebbe, uno andrebbe. Silvana, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ecco, io posso portare una mia esperienza che non è così drammatica, si tratta di un'esperienza vissuta durante un terremoto. Eravamo a cena, io, mio marito, mia figlia di 4 anni e il bambino appena nato, più piccolo, che dormiva nella stanzetta all'interno dell'appartamento. Abbiamo sentito delle forti scosse di terremoto e in quel preciso istante la luce si è spenta. Io non ci ho neanche pensato, ho sentito che la persona più in pericolo era quello che dormiva da solo all'interno dell'appartamento. Sapevo che andare all'interno dell'appartamento voleva dire mettersi in pericolo, perché la salvezza è fuori di casa. Io però, senza pensare, sono andata verso quello che sentivo più in pericolo, pensando, mio marito è lì con mia figlia di 4 anni, la prenderà lui, la bambina di 4 anni, e scappa con lei. Poi le scosse sono finite, la luce è tornata e io mi sono trovata con questa scena. Io con la mano sulla maniglia della porta della stanza da letto dove dormiva il bambino più piccolo, mio marito con la mano sulla porta d'uscita di casa e mia figlia da sola in soggiorno, seduta ancora al tavolo. Quindi suo marito ha dimostrato di essere un vigliaccone, salvava soltanto la sua pelle. Il mio ex marito. In quel momento giustamente poi ha pensato che non era proprio il caso. Non ci siamo separati per quello, però ho capito in quel momento che avevo sposato. Onestamente, non c'ha nessuna scusante, perché avrei capito una scelta istintiva di assegnazione dei compiti. Il marito prende il figlio e scappa fuori, ne salva uno. La madre prova a salvare anche l'altro, casomai che vada male un figlio comunque salvo. Ma il marito ha pensato a salvare la sua pelle e i fatti poi hanno dimostrato che non era all'altezza della gestione di figli. Grazie, ci sentiamo tra un istante. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Oggi cerchiamo di dare una risposta alle domande che questa mattina sono sentiti fare gran parte degli italiani, dalle mogli, compagne, fidanzate, amanti. Tu cosa avresti fatto? Saresti rimasto o per me saresti uscito dal cespuglio? Ecco, oggi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, voi sareste usciti dal cespuglio o sareste rimasti nel cespuglio? Riferendosi naturalmente al noto episodio del signor Boschetti, che durante la strage di Dacca è rimasto in un cespuglio mentre i terroristi compivano la strage e uccidevano anche sua moglie. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a tutti, vorrei iniziare dalle conclusioni di questo mio piccolo ragionamento. Uno, nei momenti di stress uno esce fuori per quello che è. Due, il matrimonio è la tomba dell'amore. Situazione. Qualche anno fa, nella città di Aurora, negli Stati Uniti, un pazzo entrò armato in un cinema dove si proiettava la prima di un film di Batman e cominciò a fare fuoco. Sì. Uccise un sacco di persone, non ricordo quanto. Fatto sta che molti ragazzi si fecero scudo alle loro compagne in modo tale da salvarle e si sono salvate. Quindi che vuol dire? Secondo me è l'amore, cioè la tua donna, che ti fa uomo. In certi momenti il bene superiore, l'amore per quella donna, ti porta a fare quello che normalmente a sangue freddo non faresti. Quindi ripeto, secondo me... Diciamo una cosa, mi scusi, che lo stesso istinto scatta nei confronti di una persona debole. Molte volte uno si trova a fare delle cose per degli sconosciuti che mai avrebbe immaginato. Dice, ma io perché ho messo a rischio la mia vita per salvare un vecchietto in mezzo alla strada, una persona che passava? Quindi l'istinto, se c'è un istinto diciamo buono di una persona che è di natura generosa, di natura altruista, comunque scatta comunque, non è l'amore, è verso la persona che vedi in pericolo, dice io cerco di salvare questa persona. Il suo caso mi sembra perfettamente calzante. In quel caso il mio sacrificio salva una vita, non è irrazionale, non è che finiamo tutti e due nella stessa maniera, salva una vita. Quindi vada pure avanti. È un motivo in più per reagire, certo, è un motivo chiaro, in più per darsi da fare. Quindi rimanere nel cespuglio, secondo me, è deleterio. Ovvero conferma la mia tesi che il matrimonio è la morte dell'amore. Sì, dire. Però il matrimonio è anche un'altra cosa. Il matrimonio è responsabilità verso i figli, responsabilità responsabilità verso le persone che rimangono. Non è che rimaniamo eternamente Romeo e Giulietta, Paolo e Francesca. Quando vengono i figli crescono, la vita va avanti, sono loro la fase, diciamo, la ragione sociale per cui sta insieme il matrimonio molte volte. Quindi in questo caso lei deve considerare anche questo aspetto. L'amore romantico porta che comunque sia ci si butta sulla pira e si muore assieme all'amato bene. La vita è un'altra cosa, la vita sono figli che rimangono, che devono studiare, devono affrontare la vita, possono avere dei problemi e qualcuno a loro deve pensare. In quel momento l'amore mi sembra abbastanza residuale rispetto al senso di responsabilità. Evelyn, buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora, secondo me innanzitutto l'amore non si dimostra così in questo modo, cioè il sacrificio personale. Poi bisogna, secondo me, guardare bene la situazione oggettiva. Cioè il signore, se io mi fossi trovata nella stessa situazione, nella stessa identica, cioè a 100 metri dal bar-ristorante, perché si trovava all'esterno per fare una chiamata, cioè in quel caso che cosa vuoi dimostrare? Cioè un suicidio? Ha fatto bene a rimanere nascosto, perché l'unica cosa vera e certa, se avesse avuto modo anche di pensare, era la morte. La situazione è diversa del ragazzo musulmano che invece si trova di fronte al suo assassino, accanto alle sue amiche, poteva essere la sua compagna. In quel caso la situazione è ben diversa. Il signore si trovava in una situazione dove già era presumibilmente salvo, quindi sarebbe stato un inutile modo dimostrazione che non avrebbe portato a niente, solo all'uccisione di due persone. Quello è un caso, diciamo, di eroismo, di, era talmente, non se la sentiva in quel momento di fronte alle sue amiche dire: io lascio, salvo la vita e vi lascio alle spalle voi che sarete uccise. Quello rientra nell'eroismo. L'eroismo non può essere una formula applicabile a tutti, non può essere richiesto, non è che l'atto eroico deve essere un obbligo. Quello lì potrà salvarsi e oggi lo staremmo a intervistare, ma perché ti sei salvato, non hai pensato, avrebbe detto quello che giustamente diciamo tutti noi, dice: ma tanto che senso avrebbe avuto farmi uccidere anche me, quando loro sarebbero state comunque condannate a morte. È una situazione un po' diversa, non chiediamo l'eroismo, chiediamo di fare delle scelte comunque sia che abbiano un loro razionale. Finora mi sembra che la media degli ascoltatori ha risposto secondo un razionale. Claudio, buongiorno. Sì, Claudio, certo, lei. Sì, niente, io se la domanda è cosa avresti fatto, non relativa all'azione, ma cosa avrei fatto io personalmente, io sarei uscito. Come ho spiegato prima alla redattrice, sarei uscito perché sono stato salvato due volte, tutte e due le volte stavo morendo e quindi probabilmente, anzi sicuramente, lo devo alla vita quello, e quindi sarei uscito comunque. So cosa si prova in questi momenti, pensando che tra un attimo non si sarebbe più respirati, non si sarebbe più visto nessuno, e si sente un senso di ingiustizia infinita, e se io potessi evitarlo a qualcheduno lo farei senza pensare. Lei scusi, mi riassumo perché è importante, chiudo con lei. Lei dice: due volte mi è capitato di sapere cosa si prova a stare in punto di morte, una sensazione talmente atroce che io vorrei comunque star vicino alla persona che amo, con cui mi accompagno in un momento così atroce. Ho sintetizzato giustamente? Sì, si sente un senso di ingiustizia infinita, proprio si sente che è una cosa ingiusta, e però inevitabile. Quindi ci dice Claudio, in conclusione, rispetto a questa trasmissione che secondo me ha avuto un senso, il momento in cui si sta per affrontare una morte certa è un momento in cui l'essere umano si ribella e considera la morte un atto innaturale, hai voglia di avere tutte le giustificazioni, e quindi in questo momento innaturale faccio qualcosa che non segue un ordine di natura, ma segue un ordine di razionalità, e quindi sto vicino alla persona che amo. E questa è la conclusione di una domanda che ho fatto e di risposte che ho avuto. Alla prossima.